Beh, innanzitutto qui non siamo in uno spazio dedicato all'arte, quindi c'è poco spazio perché c'è lo spazio è dedicato agli studiosi, è una biblioteca e quindi ho visto che uno dei possibili luoghi dove mettere qualche cosa erano questi banconi che servono per appoggiare i libri e ho messo a mia volta delle scaffalature che ho trovato da tanti anni che fanno anche un po' il verso agli altri scaffali che contengono libri e poi ho messo questa raccolta di bottiglie a cui ho tolto l'etichetta. Queste sono bottiglie che raccontano anche un po' la storia del paese, perché soprattutto nel dopoguerra, cioè l'Italia aveva un sacco di distillerie perché si beveva molto e ognuna credeva ovviamente di fare il miglior liquore, il miglior amaro, il miglior centerbe, poi c'erano insomma gin, vodka e tutte quante. Ed erano aziende familiari dove evidentemente ogni diciamo quello che oggi potevamo chiamare il direttore, che ne so, marketing, si inventava una forma di bottiglia differente. E quindi queste sono solo 216, io ne ho molto di più. Ognuno si inventava una bottiglia che potesse in qualche modo sia dialogare con il contenuto, sia anche prendere, diciamo, l'attenzione del consumatore insieme all'etichetta. Ecco, io ho tolto l'etichetta perché mi interessava appunto più la forma delle bottiglie e quindi. Oggi molte bottiglie anche famose, adesso mi viene in mente perché ce l'ho qui davanti, il rosso antico, però sono senza l'etichetta, anche sono delle visioni diciamo inedite. E questa è un po' la storia italiana, no? Dove ogni persona si inventava una forma per raccontare una storia. Adesso poi questi grandi gruppi hanno comprato molte aziende e quindi adesso questa storia è finita, anche perché si beve di meno. Ad esempio, liquori come il Millefiori, Kummel, così sono praticamente scomparsi. Però ecco, mi interessava anche vedere anche tutti questi colori, perché tutti pensano che siano liquidi colorati, invece sono i liquori originali. Tutte queste bottiglie sono sigillate, tutta questa serie di colori sono tutti i colori di questi contenuti. Immagino alcuni con dei coloranti, ecco, però raccontano anche un po', diciamo, la storia visiva, no? Ovviamente con i caldi brandy, quelle che ho alle mie spalle sembra acqua, mentre invece è grappa, gin, vodka, maraschino, e quindi con tutti questi colori, con sfumature, fra l'altro molto diverse, che ci danno anche un'idea di grande varietà, mentre invece oggi si è anche persa, ecco. Un'altra questione poi anche è la forma delle bottiglie, cioè la bottiglia come oggetto, che insieme al libro sono due oggetti fondamentali, credo, della nostra storia occidentale, no? E quindi messi qui insieme a un luogo di storia dell'arte, credo che ci possano raccontare mille faccende. Fra l'altro qui dietro c'è Casa Morandi, quindi voglio dire, insomma, i riferimenti sono ampi, sono lunghi, sono vasti. La storia dell'alcol noi ce la dimentichiamo, ma è una storia fondamentale per la nostra parte di mondo. Quindi apparentemente qualche bottiglia in una biblioteca non è un bar, ma è, diciamo, mettere insieme degli oggetti che ci possono dire molte cose, molte più cose di quanto noi possiamo pensare.